parlo di piedi, di tutta la Sardegna, poi non so che categoria sia, non sarà di ragazzini o di che cosa sia. Cioè abbiamo la farmacia, tutta per noi super attrezzata, c'è il comune, c'è tutto lo stesso Giulio oramai. Infatti Claudio mi dice che non sono in campagna. In effetti non è proprio campagna nel senso vero della parola, in cui intorno per chilometri non c'è nessuno. Qua è fortemente abitata, anzi devi stare attento agli incroci che qualche scemo non te ne venga pure addosso. Niente, però c'è tanta aria, c'è un bel panorama. L'unica cosa vedi, che mi manca è vedere il mare, perché c'ho l'impiasto in Monte Oro. Infatti ho fatto già la domanda perché venga spostato, no? Monte Oro fra poco lo vanno a prendere e mettere a dei punti e spostare così. Giulio è contento che ci avrà il 960 di segnale e così almeno io posso vedere il mare. Lo so, tu poc'anzi hai parlato del drone, noi ce l'abbiamo il drone, cioè io, non io personalmente, mia figlia ce l'ha il drone, quindi è anche patentata tra l'altro, che lo usa per il lavoro che svolge, per cui abbiamo anche quello. Ma quella è una cosa personale, non c'entra niente col fatto della borgata, però c'è e basta. Poi cos'è che manca? Abbiamo il pesce freddo, abbiamo tutto, negozi, supermercati grandissimi come l'MD nuovo di recente, cosa avrà un anno e mezzo, due anni massimo di attività qui alle punti. E poi se ci spostiamo un attimino, ce ne sono altri anche, ma a distanza ravvicinatissima, abbiamo il mercato ortofrutticolo, abbiamo tutto, non ci manca niente, qui alle punti non manca niente. Vai Natali. E piano piano con le punti a tavola ce ne stiamo avvicinando a Porto Torres, adesso li invadiamo. Beh certo che sì, guarda dall'ultimo censimento come il numero di abitanti, perché ripeto le punti comprende anche tutte queste località vicinissime come Villa Gorizia eccetera eccetera, no? Ci sono oltre 20.000 abitanti qua, non è che ci sono due persone, no? Tu pensi che Porto Torres ne ha di più? Assolutamente no, perché Porto Torres ha 20.000 abitanti, 22.000 abitanti, e noi siamo lo stesso livello come il numero di abitanti di Porto Torres. E Porto Torres sappiamo benissimo qual è la bella cittadina che è, per cui vedi bene, tanti cittadini abitano qua, abitano tantissime persone dei paesi, la maggior parte degli abitanti è gente dei paesi, però abitano anche tantissimi sassariesi qua, ma molti. Sono di famiglia mia, ci sono altri due miei fratelli, oltre ad essere io qua, ci sono altri due miei fratelli che abitano sempre qui nella stessa borgata. Avanti, Giofra. Ma io dico che un po' dopo l'altro, la cosa veramente importante è che dovunque sei ti stai bene, ecco. Che non ci siano quei personaggi strani, sono scatole che ti rovinano anche, ti fanno a diminuire il prezzo della casa, tutte quelle cose lì, ecco. La tranquillità è secondo me la priorità che bisogna sempre avere. Quando te ne stai tranquillo in casa tua, non ti rompe le scatole nessuno. Qua, guarda, l'unica cosa che puoi sentire sono, queste volte ci sono dei cani, perché ovviamente in campagna i cani ci sono, e questi uccellini che hanno una voce veramente, adesso ce n'è uno che sta cantando fuori, che hanno una voce veramente potente, magari quando parlo probabilmente si sente più. Sì, certo, quello sì. Chiaramente in campagna il cane c'è, perché c'è. Qui abbiamo la scuola guida, dove abito io, di fronte a me c'è la scuola guida, 20 metri più avanti. C'è la pasticceria. Cos'è che manca? Cos'è che mi sto dimenticando di dirvi? Insomma, c'è tutto, qualsiasi cosa, tu a qualsiasi ora che cerchi, quello che ti serve ce l'hai, no? Non c'è problema. poi non parliamo del servizio tranviario, qui entra all'interno, fa tutto il giro e ogni quarto d'ora c'è il tram, poi anche sulla strada per Porto Torres, cioè sulla 131 scende l'altro tram, quello che scende per Platamona, eccetera, poi sale il Puma di Porto Torres o scende il Puma di Porto Torres. Però la zona è ben servita, la verità è ben servita, e poi anche una zona tranquilla. Poi ci sta, il piccolo imbecille c'è sempre in tutte le parti del mondo, no? Poi c'è sempre qualcuno che fa il cretino, ma ogni tanto già viene preso e è messo al fresco. Avanti il Natale. Sì, infatti. Oh, yeah. Vabbè, dai. Continuate voi che a me mi ne cappa la risa e vado a farmi un caffè, se no mi addormento. Meno male, sono libero stasera, mamma mia. Vai a fare il caffè, vai, così ti svegli. Caspita, così almeno puoi riprendere, no? Se no cosa te lo prendi a fare questo caffè? Se te lo prendi per addormentarti non te ne fare, ma se te lo prendi per svegliarti ti prendi a modulare, no? Quello sono io, se prendo il caffè io la notte pure ho difficoltà a dormire, perlomeno dopo dormo sino a 2 ore, non di più, anche se lo prendo alle 10 del mattino mi fa effetto tutto il giorno e anche durante la notte. Infatti io raramente prendo caffè, ma molto raramente, proprio. Per prendere il caffè io bisogna che siano almeno le 7:30 o le 8 del mattino, qualche volta, non sempre, ma qualche volta veramente. Purtroppo quel problema lì. Se io prendo il caffè mi frega per tutta la notte, per cui va bene così. Già dormo poco durante la notte, figurati se poi prendo un caffè, allora è sveglia completa. Vai, già fra. Capita purtroppo. Ma d'altronde anche il caffè è un piacere, e come diceva quello, se non è buono che piacere. Vabbè, il caffè è un piacere, d'accordo, però tutto sommato è una cosa che il fisico umano non ha proprio questa necessità di prendere il caffè, anzi devo dire anche di più. Quando io ho fatto delle visite dall'urologo anche, mi ha detto che non prendere caffè perché il caffè è una cosa che danneggia anche, tra l'altro. Sì, è buono il gusto, fa piacere prendere un caffè, però il caffè è meglio non prenderlo. Perché a livello ad esempio di prostata, di vescica, eccetera, è meglio non prendere caffè. Questo è quello che mi aveva detto una volta l'urologo, e me lo ricordo sempre. Sì, vabbè, sai, il medico dice tante cose, poi si sa, c'è stata gente che aveva tanti problemi, no? Cioè, sono passati fino a 100 anni, poi chi lo sa. Troppo quando lavoravo, perché mancabilmente, sai, arrivavi la mattina lì, il primo amico che arrivava io a prendere il caffè, ci avevamo davanti, e adesso che io non ho mai bevuto alcolici io non ne bevo, però il caffè lo prendevo, dopo che lo prendevo, anche tre ne prendevo in una mattinata, per dire, no? Ma poi col passare degli anni ho lasciato prendere anche quel vizio, perché devo essere sincero, come gusto mi piace, come gusto il caffè mi piace, sempre con un po' di zucchero chiaramente, non senza zucchero, c'è gente che non prende senza lo zucchero, per cui non sono così, mi piace il gusto del caffè ma zuccherato. ma è una cosa che sinceramente non mi manca assolutamente. C'è gente che ne prende anche 3, 4, 5, 6 al giorno, boh, vive di caffè, io no. No, io lo prendo solo quando faccio colazione, insieme al latte. E qualche volta lo prendo anche nel dopo pranzo, quando sono fuori soprattutto, eccetera, che devo guidare, quindi mi serve essere un po' sveglio, ecco. Tutto lì. E poi comunque io prendo sempre caffè, in ogni caso caffè decaffeinato, perché non decaffeinato non mi piace, però mi dà anche a me qualche fastidio, però no, non ci rinuncio, ecco, tutto lì. A me sono di quelli che il caffè piace praticamente amaro. Io ci metto normalmente tre cucchiaini o tre bustine di zucchero, e quindi per me è quasi amaro. E io che non ne posso mettere nulla, prima già me li mettevo due cucchiaini di zucchero, maledizione, adesso non i bussubuni, devo mettere il dolcificante, e molte volte per non mettere il dolcificante è amaro, comunque ci voleva. Già fatto, bevuto ce l'hai, hai fatto bene. E io ne ho due macchinette per il caffè, ne ho due, devo dire che lo fa anche molto buono. Ci metto la cialda, ci metto anche con un caffè fuso, senza che sia cialda, anche quando già in polvere, va bene lo stesso. Ma esce una crema di caffè proprio, esce buonissimo, veramente. Ma io lo uso, con la macchinetta la uso solamente per il latte, ma questo d'inverno, d'inverno quando fa freddo, perché in estate no, nemmeno il cappuccino mi sto facendo più, preferisco magari una tazza di coso, di yogurt, preferisco, oppure una frutta, insomma, qualcosa del genere, ma quando d'inverno sempre il latte, immancabilmente, la mattina un bicchiere di latte, bello caldo, con dei biscotti, e per cui faccio colazione così. La macchinetta è di quelli perfetti, proprio quelli espresso, di lusso. Vai, già fra. Sì, ma anche il test per quello, probabilmente, se è un problema che è un eccitante, come il caffè, anche il tè è un eccitante. Quindi anche di lì bisogna un pochettino limitarsi, ecco. Certo che sì. Bisogna sempre limitarsi, vai, tutte le cose. Vedi che mi sono svegliato, che sono bello pimpante adesso. Anche io ho la macchinetta, ci metto un minuto a farlo. Cosa? Esce buono, la vaffa è questo. Sì, noi adesso prendiamo generalmente quello caffè lì, quella vaffa, prima il gusto. Oppure l'altra marca, anche Kimbo, anche quello è molto buono lo stesso. Tra i due non so quale preferisco io, vabbè che io ripeto, caffè non ne prendo quasi mai, però quando proprio ne ho voglia, ma raramente, non fa differenza, o Kimbo o Lavazza, crema e gusto, ce ne abbiamo tutti e due. Ma non una di quelle macchinette che ti propongono, che poi devi comprare 50-60 euro di caffè al mese, devi consumare. Boh, pazzesco. Oh, io la macchinetta ce la siamo comprata, anzi ne abbiamo due, e ci prendiamo noi, le cialde ci prendiamo, non ne voglio, qua ogni scatola ce ne sono 18 cialde ci sono in ogni scatola, e dunque per 18 giorni va bene il caffè per mia moglie, perché io, ripeto, raramente lo prendo il caffè. Avanti Gianfra. Natali, ma dove è dato anche al cane il caffè, perché sentiva, era nervoso. No, il cane già è calmo, anzi è addormentato per l'esattezza, poverino. No, lui beve solo whisky, capito? Il caffè non gli piace. Tu sei cuocuomane. Faglielo corretto allora. Mille altro cuocuomane è entrato. Ti credo non puoi prendere lo zucchero perché sei cuocuomane. E allora? Non lo sapevi. Buonasera a tutti. Ciao Luca, buonasera. Riprendi giù. Ok, ciao Luca. Bella del blatto, dai. Mi stacco un attimino io, dai. Dopo già rientro tra un po'. Adesso vado a prendere il caffè. Tutti hanno preso il caffè, è andata lì. E io mi faccio un panino adesso con la pettacca, va bene così. Ti prendi Luca, rientro tra un po', dai. Ciao Giulio, ciao Gianfranco, ciao Natalino. Ciao, sono in Oghe, dai. Sono qua, sto guardando dei video dal telefono, riprendi Natalino. Ecco, tu iaia. E anche io dovrei fare lo spuntino, mamma mia. Vabbè, da voi più tardi lo faccio. Adesso non ne ho voce. Ciao. Ciao Luca. Devo fare per non abbassarmi la glicemia troppo, no? Perché già non mi sale tanto, però se non mangi bene a pranzo ti scende troppo. Stranamente è una cosa che ancora non ho preso, ma diabete, ma dovrei essere sulla buona strada, penso, anche se i valori sono sempre ottimali. Per il consumo di zucchero che faccio io sono, guarda, ci vuole un zuccherificio adesso. Ripeto, tento di limitarmi perché so che a lungo andare poi fa danno, però almeno tre bustine me le puoi dare. Sì, vabbè, ma stai attento che è una condanna, mamma mia, è una condanna il diabete. Io l'ho avuto perché ho avuto quella pancreatite, perché sennò già mi stavo tenendo sotto controllo, perché io ero soggetto ad averlo, perché avevo in famiglia gente che erano tutti diabetici e quindi ero predisposto. Come diceva John Wayne, qualcosa bisogna pur morire, no? Lo so, ma non te lo augurare che è una condanna, guarda, sei vincolata a orari, a questo, a quello, quando io ne facevo di tutti i colori, eppure diabete, nisba, adesso con la scusa che mi è venuta questa pancreatite, il diabete mi è venuto pure. Fai così, mamma mia, che poi non ne puoi prendere più se ti viene il diabete, non te lo augurare, per carità, che malattia brutta, sembra che non c'hai niente, ma è poco e subito. Vabbè, tanto prima o poi qualcosa c'è da venire, quindi tanto vale. Non so se tu lo vedi, quei cartoni animati che davano i Simpson. Io sono come Mr. Bart, no? Quello che c'aveva il proprietario di quella stazione nucleare, quello Riccone, che è pieno di malattie, c'ha tutte le malattie di questo mondo, talmente tante che non ce ne stanno altre. Figurati. Per me il 2020, il 2021... annus horribilis. E per tutti questo. trattata. Non ti preoccupare. Per quello già non ha fatto distinzioni, ecco. E c'è gente che purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno. È stata la scusa buona per andarsene. Oh, questi anni, questi due anni sono degli anni di sfiga micidiale, si ha portato via tutti gli artisti possibili e immaginabili, ha fatto strage, eh? Io uno o due ne sono morti. Adesso mi Raffaella Carrà, prima Gigi Proietti, gli anni sono morti uno o due. Tutti gli artisti sta facendo fuori. Con la signora in nero, ne sa due righe. E allora, molta gente, mamma mia. Ma... già c'aveva 78 anni, non era tanto anziana. È nata lì. Diciamo sempre così. Poi... mi sa che con la signora dell'età non ne frega niente, c'è gente che arriva a 100 anni, c'è gente che non arriva neanche ai 40. Dipende, come diceva il sacro testo, non saprei quando, non saprei dove, quindi preparati, l'olio e l'omicino sempre acceso. Tu pensa, a me è venuto il prete qua, anche l'estremunzione mi ha dato prima di operare. Sì, vabbè, quello è successo a molti, ma lo raccontava anche mio nonno quando era in guerra, nella prima guerra mondiale, preso da Garzia, che aveva dato anche già l'estremunzione, eppure se l'è cavato. E quando non ti vuole non ti prende. Sì, infatti. Ma mia moglie mi dice sempre per le sigarette, smetti di fumare quello e quell'altro. Io conoscevo un uomo che è morto a 90 anni e ha fumato di tutto da bambino piccolo. Io invece conoscevo un mio collega da poco che ha fatto di fumare e c'è finito sottoterra e non aveva poco più di 50 anni. E quello è un poverino, quello è troppo giovane, che è piccino, quello già è un peccato. Troppo. Siamo nati per soffrire, vero? Non se ne capisce più nulla. Giulio se n'è andato a mangiarsi il panino, la faccia mia. È così che impari. Mi devo allontanare un attimo, giusto per passare in allegria, che c'ho un gatto che stava male da ieri, ma male, c'è un meglio male, stava morendo. Un'infezione. E quindi vado a vedere se ha esalato l'ultimo respiro, perché non c'era niente da fare. Questo animale ha retto già due giorni praticamente in uno stato di coma, muoveva le gambe, tentava di muovere le orecchie, quindi non sapevo cosa fare, se sopprimerlo, forse lasciare che la natura facesse il suo corso. Adesso vado a vedere, ma penso che sarà morto. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Sì, ciao. Ah no, vado a cercare pure bastardi che se ne noto la faccio. pace.